Le piacevoli notti. Libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Favola terza postuma dell'ottava notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini. Favola terza postuma. Anastasio Minuto ama una gentildonna ed ella non ama lui. Egli la vitupera ed ella il dice al marito, il qual, per esser vecchio, gli dona la vita. Quantunque, graziose donne, la focosa lussuria, sì, come scrive Marco Tullio nel libro della vecchiezza, sia ad ogni età fetente e sozza, niente di meno alla canuta vecchiaia è sozzissima ed ogni immondizia piena, perciò che, oltre la lei lordura e succidume, ella debilita le forze, toglie la vista, priva l'uomo dell'intelletto, fallo infame, gli vuota la borsa, e con la sua corta e fastidiosa dolcezza spingelo ad ogni scelerato delitto. Il che fiavi noto, se alle mie parole, secondo il costume vostro, grata e benigna audienza presterete. Nella nostra città, che di belle donne ogni altra avanza, trovavasi una gentil Madonna, leggiadra ed ogni bellezza compiuta, i cui vaghi lumi fiammeggiavano come mattutina stella. Costei, vivendo in delicatezze, essendo morbida e forse maltrattata dal marito nel letto, scelse per suo amatore un giovane valoroso, accostumato e di onorevol famiglia, e fecelo possessor dell'amor suo, amandolo più che il proprio marito. Avvenne che un uomo d'anni molto aggravato e amico del marito, il cui nome era Anastasio, sì fieramente s'accese dell'amor di costei che né dì né notte non trovava riposo, e tanta era la passione e il tormento che egli sentiva che in pochi dì divenne sì macilente e magro che appena la pelle sopra le ossa ci stava. Egli aveva gli occhi lagrimosi, la fronte rugosa, il naso schiacciato, che a guisa di lambico sempre gli stillava, e quando fiatava rendeva un certo fetore che quasi ammorbava chi si avvicinava a lui, e in bocca aveva solo due denti, i quali gli erano più presto di danno che di utile. Appresso questo era paralitico. Ed avenga che il sole fosse in leone e scaldasse molto, non però si trovava mai caldo. Essendo adunque il miserello d'amor preso e infiammato, sollicitava molto la donna, ora con un presente ed ora con un altro. Ma la donna, ancorché di gran valuta i doni fussero, tutti li rifiutava, perciò che a lei non bisognavano suoi presenti, per avere il marito ricco, che non le lasciava cosa alcuna mancare. Più volte il vecchio la salutò per strada, quando ella andava o ritornava da divini uffici, pregandola che l'accettasse per suo buon servo e che non fosse sì cruda, bramando la lui morte. Ma ella, prudente e savia, con gli occhi bassi, nulla rispondendogli, a casa ritornava. Avvenne che Anastasio s'avide che il giovane, di cui dicemmo di sopra, frequentava la casa della bella donna, e tanto cautamente spiò che lo vide una sera che il marito era fuori della città entrare in casa, il che gli fu un coltello al cuore, ed impazzito, non avendo riguardo né all'onor suo né a quello della donna, prese molti danari e gioie e, andatosene alla casa della donna, picchiò all'uscio. La fante, udito che ebbe picchiare la porta, fecesi al balcone dimandando: «Chi picchia?» Il vecchio rispose: «Apri, ch'io sono Anastasio e voglio parlare a Madonna di una cosa importantissima!» La fante, conosciutolo, ne andò subito a lei, che con l'amante era in camera e si sollazzava, e chiamatola da parte le disse: «Madonna, messer Anastasio picchia alla porta!» A cui disse la donna: «Va e digli che vada per fatti suoi, ch'io di notte non apro la porta ad alcuno quando il mio marito non è in casa.» La fante, inteso il voler della donna, gli riferì quanto ella le aveva detto. Il vecchio, veggendo che gli era data ripulsa, cominciò fieramente a picchiare e con ostinato animo voleva entrare in casa. La donna, già accesa di sdegno ed ira, sì per lo disturbo, sì anche per lo giovane che era in casa, si fe alla finestra e disse: «Mi meraviglio grandemente di voi, messer Anastasio, che voi senza rispetto alcuno veniate a queste ore, picchiando l'uscio delle altrui case. Andatevene, poverello, a riposare e non molestate chi non vi dà noia. Se il mio marito fosse nella terra in casa, come non è, io vi aprirei volentieri, ma poiché egli non è in casa non intendo di aprirvi.» Il vecchio pur diceva volerle parlare, e di cosa di non poca importanza, né però cessava di picchiar la porta. La donna, vedendo la temerità del bestione e temendo che per sciocchezza non dicesse cosa che redondasse contra l'onor suo, si consigliò con l'innamorato giovane, il quale rispose che l'aprisse e intendesse quel che dir voleva e che non temesse. Ella, tuttavia, il vecchio fortemente battendo la porta, fece accendere un torchio e mandò l'ancilla ad aprirlo. Venuto il vecchio in sala, la donna uscì di camera e, fattasi l'incontro, che pareva una mattutina rosa, dimandollo quello che egli andasse facendo a quell'ora. Il vecchio amoroso, con benigne e pietose parole, quasi piangendo, disse: «Signora, unica speranza e sostenimento della misera mia vita, non vi paia strano che io temerariamente, con prosonzione, sia qui venuto a picchiar il vostro uscio, dandovi noia? Io non son venuto per annoiarvi, ma per dichiararvi la passione e l'affanno che per voi, Madonna, sento. E di questo ne causa la unica bellezza vostra, la qual vi fa ad ogni altra donna superiore. E se voi non arrete chiuse di pietà le porte, sovvenirete a me, che per voi al giorno ben mille volte moio. De, addolcite quel vostro duro cuore, non riguardate alla età né la picciola condizione mia, ma l'alto e magnifico mio animo e caldo amore che io vi portai, ora porto e sempre porterò, finché l'afflitto spirito reggerà queste deboli ed afflitte membra. Ed in segno dell'amor mio verso di voi, allegramente accetterete questo presente, il quale, ancor che picciolo sia, pur caro lo arrete.» E tratto fuori di seno un borsone di ducati d'oro, che lucevano come il sole, e un fil di bianche, grosse, tonde perle, e due gioie legate in oro, gliela presentò, pregandola che ella non li negasse il suo amore. La donna, udite e chiaramente intese le parole dell'insensato vecchio, disse: «Messer Anastasio, io mi pensavo che voi aveste altro cervello di quello che voi avete, ma ora mi parete d'intelletto privo. Dov'è il sapere e la prudenza vostra? Credete voi che io sia qualche meretrice, tentandomi con vostri presenti? Certo, voi vi ingannate. A me non mancano coteste cose che donarmi volete. Portatele alle vostre triste, che vi contenteranno. Io, come ben sapete, ho marito, il qual non mi nega cosa che mi fa bisogno. Andatevi adunque alla buon'ora e quel poco di tempo che vi avanza attendete a vivere. Il vecchio, e da dolore e da sdegno compunto, disse: Madonna, rendomi certo che questo non dite da dovero, ma per paura del giovane che ora avete in casa, e nominollo per lo proprio nome. E se voi non mi contenterete, soddisfacendo al desiderio mio, io vi scoprirò il marito vostro. La donna, sentendo nominar per nome il giovane che aveva in casa, non si smarrì, ma li disse la maggior villania che mai si dicesse ad uomo nato, e preso un bastone in mano, volse dargli delle busse. Ma il vecchio bellamente scese giù dalla scala e, aperto l'uscio, si partì. La donna, partito il vecchio, se n'andò in camera, dove era l'innamorato giovane, e, quasi piangendo, gli raccontò il tutto, temendo forte che il scelerato vecchio non l'appalesasse al marito, e addomandogli consiglio che via ella tener dovesse. Il giovane, che era savio e accorto, prima confortò la donna e diedele animo, indi prese ottimo partito e disse: Anima mia, non dubitate punto, né vi sgomentate, prendete il consiglio che vi darò io, e state sicura che ogni cosa riuscirà in bene. Ritornato che fia il marito vostro, raccontategli la cosa, come giace, dicendogli che il tristo e sciagurato vecchio vi infamia di commettere il peccato con questo e con quello, e annoveratene 4 o 6, tra quali ancor me mi porrete, e poi lasciate operar la fortuna, che vi sarà favorevole. Parve alla donna ottimo il consiglio, e fece tanto quanto l'amante la consigliò. Ritornato il marito a casa, la donna si mostrava molto addolorata e trista, e con gli occhi pieni di lagrime malediceva la sua trista sorte, e addimandata dal marito che cosa avesse, nulla rispondeva, ma solo piangendo ad alta voce diceva: Io non so che mi tenga, ch'io da me stessa non mi dia la morte, che non posso patire che un perfido e traditore sia causa della mia ruina e perpetua infamia. Ahi, misera me, che aggio fatto io che debbio esser lacerata e fino al vivo squarciata? E da chi? Da un manigoldo, da un assassino che meriterebbe 1000 morti. Pur astretta dal marito, gli disse: Quel temerario prosuntuoso vecchio amico vostro, Anastasio, uomo insensato, lascivo e dissoluto, non egli venuto l'altra sera a me chiedendomi cose non men disoneste che triste, offerendomi denari e gioie, e perciò che io non gli diedi orecchio né volsi contentarlo, mi cominciò villaneggiare, dicendomi ch'io era una trista, che io menava gli uomini in casa, e che io mi impacciava col tal e col tale, il che udendo rimasi morta. Ma fatto buon coraggio, presi un bastone per batterlo, ed egli, dubitando di quello li poteva venire, con bel modo scese giù per la scala e si partì. Il marito, intendendo questo, fu oltremodo dolente, e confortata la moglie, determinò di fargli tal scherzo che sempre si ricordarebbe di lui. Venuto il giorno sequente, il marito della donna ed Anastasio si rincontrarono insieme, ed innanzi che il marito dicesse cosa alcuna, Anastasio fece motto di volerli parlare, ed egli molto volentieri lo ascoltò. Disse adunque Anastasio: Signor mio, voi sapete quante qual sia sempre stato l'amor e benevolenza tra noi, che a quella poco si potrebbe aggiungere. Onde, mosso d'ardente zelo dell'onor vostro, determinai dirvi alquante parole, pregandovi tuttavia per l'amor che tra noi le teniate ascose, provvedendo con maturo giudizio e con ogni celerità le cose vostre. E per non tenervi sospeso in lungo sermone, dicovi che la moglie vostra è, vagheggiata da tal giovane, ed ella l'ama e si dà piacere e sollazzo con esso lui, con grave scorno di voi e della famiglia vostra. E questo va fermo, perciò che l'altra sera che voi eravate fuori della città, io con gli propri occhi li vidi la sera entrare in casa vostra incognito, e la mattina per tempo uscire. Il marito, udendo questo, s'accese di sdegno e cominciollo villaneggiare dicendo: «Ah, sciagurato, manigoldo e tristo! Non so che mi tenga ch'io non ti prenda per cotesta barba e che non te la cavi a pelo a pelo. Non so io di che condizioni è la moglie mia. Non so io come l'hai voluta corrompere con dinari e gioie e perle. Non hai tu detto, sciagurato e tristo, che non volendo ella consentire alla tua sfrenata voglia, tu l'accuserai a me, facendola dolente e grama tutto il tempo della vita sua? Non hai tu detto che il tale e molti altri si danno piacere con essa lei? Se io non avessi risguardo alla età tua, io ti follerei sotto ai piedi e te ne darei tante che ti uscirebbe l'anima del corpo. Vattene in tua malora, vecchio insensato, né mi venir più dinanzi gli occhi, né sarai più sì oso di avvicinarti a casa mia». Il vecchio messe le pive nel sacco e, come muto divenuto, si partì, e la donna, savia e prudente dal marito tenuta, con maggior sicurtà che prima, si diede buon tempo col suo amante. Fine della storia. Fine della favola terza postuma dell'ottava notte. Registrazione di Roberto Cofini.